eri fidanzato, oh, oh, oh, ma non eri fidanzato. Mi sveglio sudata, incollata al parquet. Siri, dimmi perché. Se mai ti dicessi no, sarei finto. Chi ci crede più alla monogamia? Però solo sesso è un po' come il comunismo, una cosa che funziona in teoria. Siri, zoomami la foto del buco nero, che non trovo più due anni con la mia ex. Cambia aria perché fra c'è un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Scoppierà, ringhia come un Doberman, mi augura la morte ma moriva per me fino a una notte fa. La nostra storia è guerra come col Vietnam, brucia ma non crolla come Notre Dame. Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita, che da quando sei tornata. Io non rispondo al ciel e ti guardo mentre vai via da me. Cerco un altro te, ma non so dove.